altitude and the slush and the ice and the mud and everything else. I was snowboarding. In Puerto Rico, Johnny. Come on, girl, look at you. I got to see you. Look at you, too. Hola, bra. Buonasera. Mi sei venerdì? Insomma, gussi gussi. Ma sono a due di radio e due di segnali. Sì, in zona lontano sì, a Porto Torrese, no? Fagli su, Ah, cos'è che io ti ascolto? Ma insomma già ti ascolto. No, ascoltate, io ti ascolto. Abbastanza bene. Cosa si è andata a piccare? In un molto modo ti sei buccio. Sei andato? Se sei vicino alla centrale, è buono mettere cose da piccare in chivi. Se sei proprio lì, è buono. Yeah, è un punto buono. Da gira rubesci in chi vicino. Franco! Dottore Squaro, mi ascolti? Attacco su io. Dove che non attacco su? Io gli attacco su. Poi là se non uso. Guarda un po' quanto ti sto arrivando adesso, quando sono con il carro armato. Adesso sei di più. 4 di segnale e 4 di radio. Meglio di prima, più forte? Sì, apparata più forte, sì. Basta di positivo, dai. Ti prendo l'otto, so. Sì, ok, fammi sapere. Basta di positivo. Ok, senti a me, Gian Maria. E chi è? Attenzione Gian Maria,